Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera, buonasera ovunque voi siate. Questo era la classica presentazione che faceva Nunzio Filogamo ormai tantissimi anni fa, questo grandissimo personaggio della radio e televisione italiana, per dare il via alle manifestazioni canore del nostro paese, in modo particolare a qualche edizione di Sanremo di 300-400 anni fa, giusto, sì, Francesco? Sì, un secolo fa. Ma perché abbiamo omaggiato così Nunzio Filogamo? Perché ormai da qualche settimana qui al Soundcheck, avendo nominato personalmente il nostro redattore Francesco Tromba responsabile del repertorio in lingua italiana, diamo il via all'appuntamento con la nostra prova del suono, cercando di capirci qualcosa di più sulla musica leggera italiana oggi. Giusto? Giusto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, mio caro Francesco Tromba. Lo so, ormai hai in mano questa patata bollente. So che ti sono arrivate diverse email con minacce. Sì, anche perché sono abbastanza critico nei confronti. Tu sei abbastanza critico in generale, proprio nella vita, anche con te stesso, però sì, sei critico. Questo è già un punto a favore. Però tu sei un comunicatore, nel senso che sei laureato in scienze della comunicazione. Esatto. E quindi sei uno scienziato della comunicazione? Sì, diciamo di sì. Quando uno si laurea in scienze della comunicazione, che diventa? Perché io sinceramente non lo so. Dottore in comunicazione. Ah, dottore in comunicazione. Allora il nostro dottore in comunicazione Francesco Tromba è pronto per comunicarci qualcosa che riguarda il repertorio in italiano. Con cosa vogliamo iniziare? Abbiamo una bella notizia? Sì, allora a me è rimasta, diciamo, un po' qua in gola questa notizia sul Festival di Sanremo. Come? Neanche iniziato? Siamo a qualche mese? Ci sono già polemiche? Sì, già iniziano le polemiche. Mi sembra giusto. Infatti c'è stata anche un'interrogazione parlamentare perché secondo l'Audicop, che è un rappresentante di 170 etichette indipendenti, sì, il regolamento di Sanremo, sì, per partecipare a Sanremo non era corretto nei confronti appunto delle nuove etichette indipendenti. Delle indipendenti, quindi in qualche modo il regolamento di Sanremo agevolava o agevola che cosa? Le etichette più importanti, sì, quelle storiche, le multinazionali? Sì, quelle che esistono da più tempo. E quindi le etichette indipendenti riunite con l'Audiocop, che cosa hanno fatto? Hanno chiesto chi? Al ministro? No, al responsabile per la musica. No, però io so che è stata inviata un'interrogazione al ministro per i beni culturali Dario Franceschini e alla commissione di vigilanza RAI presieduta da Roberto Fico, per chiedere che cosa? Una proroga. Sì, una proroga per iscriversi a Sanremo. E quindi un artista giovane, indipendente, appartenente a un'etichetta magari neonata, Non ha possibilità di iscriversi a Sanremo. Beh, questo non è bello, non è carino oggi nel 2014, quasi 2015. Beh, questo è un sintomo, diciamo, di quanto è malata anche la musica italiana. Anche dire la musica italiana, perché è chiusa ancora? Si lavora a compartimenti stagni. A quanto pare. E quindi se tu sei un artista indipendente, per partecipare a Sanremo devi in qualche modo entrare in un circuito importante o appartenere a una multinazionale, come si fa? Oppure devi conoscere le persone giuste, magari. Ah, proprio all'antica, proprio all'italiana. Sì, ma no, non credo sia così. Io credo sempre che il talento e una bella canzone facciano sempre la differenza. Se scrivi una bella canzone, comunque qualcosa potrebbe succedere. Sì, comunque la gente si accorge di te. Si accorge di te. Tu hai scritto una bella canzone? Ancora no. Ma oggi ci fai ascoltare delle belle canzoni o no? Sì, dai. Oh, ok, va bene. Allora, diamo il via al repertorio in italiano, anche se abbiamo già rubato 4 minuti e 14 secondi. Te lo voglio dire senza ascoltare una nota. quindi partiamo subito. Partiamo con subito. La musica, che, dai. Che cosa ci presenti? Levante, in realtà non è, non è un proprio vento, una, non è un vento. No. Non è un vento, è una cantante. Sì, non è una novità, perché risale all'anno scorso questo pezzo, come al 2013. Si intitola Alfonso. Ma chi? Alfonso. La canzone? Sì. Vabbè, allora ascoltiamo Alfonso di Levante e poi ne parliamo. Tanti auguri, ma non ti conosco. Il responsabile del repertorio in italiano del soundcheck di Radio 24, ovvero il comunicatore, lo scienziato, il dottore in comunicazione Francesco Tromba, ha scelto Alfonso della songwriter Levante per aprire l'appuntamento di oggi. Parlami di Levante. Sì, diciamo che è un po' una... è riuscita ad avere successo nell'ultimo anno grazie sia a questa canzone che è diventata il tormentone estivo del 2013 e anche perché si sono accorti di lei sia Fiorello, sì, che Max Gazzè, che l'ha utilizzata per l'apertura dei suoi concerti. Quindi ha avuto la possibilità di essere sostenuta da due personaggi, Fiorello e Max Gazzè. Bene, Levante, suona Levante qualcosa? Sì, suona la chitarra. Sì, Quindi è una ragazza che comunque se la suona e se la canta. Sì. I brani li scrive lei? Sì, sì, è cantautrice. No, non mi è dispiaciuta per niente Levante, è carina? Sì, è anche una bella ragazza. Il che non guasta. È siciliana. È già stata a Sanremo? No, ancora no. Ancora no, quindi probabilmente si presenterà quest'anno, non lo sappiamo. Credo di no. Levante, te lo vogliamo dire, se non vai al Festival di Sanremo puoi sempre fare un'interrogazione parlamentare. Vabbè, allora da Levante passiamo a un'altra cantante che tra l'altro noi abbiamo ospitato qui al nostro soundcheck presentandola, forse in anteprima, forse no, però... Siamo sicuri che questa ragazza siamo sicuri? No, dovrebbe partecipare anche lei al prossimo Festival di Sanremo e faremo il tifo per lei. Sicuramente. Anche per Levante, ma non lo sappiamo se l'interrogazione parlamentare andrà a buon fine. In realtà non sappiamo neanche se Carolina Bubbico ha fatto domanda. Ha fatto domanda? Beh, non lo so, ci sta provando da 2 anni. Adesso c'era, mi pare, il maestro Vessicchio che stava collaborando con lei. Il maestro Vessicchio praticamente dorme sul palco dell'Ariston. Dorme sul palco dell'Ariston tutto l'anno. E quindi in qualche modo, diciamo, la strada potrebbe essere spianata. Speriamo per lei di sì. Se lo merita. Se lo merita, perché Carolina Bubbico è una bravissima pianista, bravissima arrangiatrice, canta molto bene, onnivora musicalmente, insomma ha tutte le carte al posto giusto. Sì, tutte le carte in regola per riuscire a sfondare, anche visto il panorama della musica italiana che è abbastanza povero, lei potrebbe aggiungere qualcosa magari. Speriamo di sì. Carolina Bubbico torna quindi al soundcheck di Radio 24, posso dire con un suo successo? Sì, dai. Diciamo, Controvento, Carolina Bubbico e il suo talento qui al soundcheck. Sei distante dal mio tempo che scivola. Ballerine contro vento rincorrono la favola. Ricomincio dal momento che si sbriciola. Poi raccolgo ogni frammento per la strada. Soundcheck, il suono della musica. Questo è il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Questo è l'appuntamento numero 186 con la grande musica. Prima parte, primo segmento dedicato al repertorio in italiano selezionato dal nostro Francesco Tromba. Più volte vi abbiamo raccontato che oggi la fruizione della musica non avviene soltanto attraverso l'acquisto dei CD, che vendono ben poco. Infatti c'è la crisi discografica, non perché i CD non vengono venduti, ma perché i CD non vengono acquistati. Ecco qual è il problema, mio caro Francesco Tromba, tu che sei comunicatore. Si scarica la musica, molto spesso viene scaricata abusivamente, direttamente da internet, ma oggi gli artisti, soprattutto gli artisti indipendenti e quindi anche quelli italiani che hanno fatto l'interrogazione parlamentare perché non possono partecipare ancora al Festival di Sanremo, molto spesso utilizzano delle piattaforme digitali per esporre la loro mercanzia, quindi le loro composizioni, come SoundCloud e Bandcamp, ne abbiamo già parlato. E infatti noi, ormai da più di un anno, spesso andiamo a visitare queste due piattaforme per scovare qualcosa di nuovo, e più volte vi abbiamo presentato qui al Soundcheck degli artisti che, non appartenendo alla discografia ufficiale, propongono il materiale lì, e lì si può acquistare oppure addirittura scaricarlo gratis perché gli artisti ce lo consentono. E allora, andando in giro fra queste pagine e questi portali, abbiamo scoperto un paio di ragazze. La prima che noi vi vogliamo fare ascoltare è una bella ragazzotta, ecco, Dawn Pemberton. Beh, una bella ragazzotta proprio, non posso dirlo. E la domanda infatti al dottore in scienze della comunicazione Francesco Tromba è quasi naturale: secondo te, Francesco, perché Dawn Pemberton non appartiene a una multinazionale? Perché sicuramente non è bella, diciamo. Puoi essere anche più esplicito e diretto. È un po' cicciottella. È un po' un cessone. No, mi dispiace per Dawn Pemberton, che ha un grande talento e una bravissima vocalist, una brava pianista, perché poi quello che noi facciamo da musicisti è andare a curiosare e capire chi sono, da dove arrivano e qual è il background di questi nuovi nomi della musica internazionale. Dawn Pemberton, sì, Dawn Pemberton peserà, ma non so, sui 110 kg? Sì, diciamo, abbondanti. Quindi wurst, hamburger, mangio patatine salsicce. Fritte, salsicce, che sono quelle che fra pochissimo cucineremo anche noi, ma non nel termocamino, perché adesso, anzi, dobbiamo mettere i ciocchi perché sennò inizia a fare freddo qui. Dawn Pemberton qui al Soundcheck, che cosa ci fa ascoltare e parlaci di lei, mio caro Francesco, vai. Allora, il suo ultimo album è uscito da poco, fine ottobre. È uscito, sta lì, dove sta? Su Bandcamp. Sì, su Bandcamp. Che è uscito? No, chi glielo fa uscire? Si può anche richiedere una la copia fisica? CD, hai capito? Sì. L'ha fatto. E questa è la cosa bella di Bandcamp, che si può sia scaricare la musica liquida. Ma che è su Bandcamp o SoundCloud? Su Bandcamp. Bandcamp, ok. Il brano che andiamo ad ascoltare si chiama Deeper, invece l'album si chiama Say Something. Costa in formato digitale $9, invece in formato CD $12, più la spedizione. Sì. Che poi va bene, poi parliamo di un'altra cosa, e anche un consiglio agli artisti italiani indipendenti che non sono ancora sotto contratto. Dawn Pemberton con Deeper al Soundcheck di Radio 24. Just like roots grown underground, water in a well, dig down low, that's where we gotta go. It's the only way to tell if our hearts and minds intertwine. Give lots of love and let it shine. Don't know if we're meant to be, only one way to see. Let's go deep, yeah. Dicevamo di Dawn Pemberton, presente al Soundcheck di Radio 24 con una sua composizione intitolata Deeper, che troverete nelle sue pagine presente nel portale Bandcamp. Per gli artisti indipendenti c'è un'altra soluzione, perché oggi che cosa si fa? Che cosa fanno i musicisti? Visto che i dischi si vendono più ai concerti dal vivo, sto parlando del supporto fisico, proprio il CD, si vendono ai concerti dal vivo. Quindi molto spesso gli artisti vanno in una stamperia con il loro master, il loro booklet digitale, si fanno stampare il CD, ne comprano diverse copie, viene pagato il tributo alla SIAE, quindi viene messo il bollino SIAE sul CD, che può essere venduto anche durante i concerti. Non so se la cosa è completamente legale, fatto sta che tu spendi i tuoi soldi, fai il tuo investimento per poi recuperare al massimo quello che hai speso per la stampa dei tuoi CD. Però c'è un'altra soluzione. la soluzione è quella di affidare il tuo master e le tue copertine, quindi la tua produzione, a CD Baby. CD Baby è uno dei più grandi distributori a livello internazionale di musica indipendente. Basta scaricarsi dal sito di CD Baby il contrattino, firmare il contratto e inviare direttamente a CD Baby le copie dei tuoi CD e poi ogni mese, per tutte le copie che vengono vendute, CD Baby ti manda sul tuo conto in banca le royalties discografiche. E CD Baby è utilizzatissimo oggi dagli artisti indipendenti e fa anche un bel fatturato, mio caro, perché praticamente tutti gli artisti del mondo si rifanno a CD Baby. E dice: ma come li distribuisce i dischi? Via internet. Quindi tu promuovi la tua musica via internet con il link su CD Baby, quindi se non vuoi farla scaricare o se non la vuoi scaricare da internet, puoi acquistare il CD fisico distribuito da CD Baby, che te lo spedisce naturalmente con i costi che ci sono, perché CD Baby è un distributore americano e quindi ci sono anche dei costi alti per la spedizione. Detto ciò, andiamo a un'altra artista scovata dal nostro Francesco Tromba, questa volta dove? È di origine, è nata a Parigi, però viene dalle Guadalupe francesi. Ma dove hai trovato questa produzione? Sempre su Bandcamp. Bandcamp. Allora, si chiama Mimi Nelsi. Nelsi? Nelsi? Nelsi. Mimi Nelsi. Sì. Vabbè, Mimi Nelsi. E che cosa ci canta questa Mimi Nelsi? Come dice lei stessa sulla pagina di Bandcamp, tutte le canzoni sono cucinate con uno spirito indiano dell'Ovest e con alcune spezie provenienti dalle Indie dell'Est, hip hop, soul, ritmi caraibici, diciamo un po'. Si sentono un po' tutte le sue influenze. Sì. E suona qualche strumento? Devo ancora approfondire. Non lo sai. E queste sono notizie fondamentali, no? Perché poi magari un giorno hai bisogno di una brava cantante e chiami Mimi Nelsi, anche perché è francese, con una compagnia low cost, 100 euro la fai venire e le fai cantare un bel brano. No, ti posso assicurare che è una gran bella ragazza. Fai vedere? È un motivo per... Uy, la chiamiamo per sicuramente Mimi Nelsi al soundcheck con Where Were You? Dove eri, maledetto? Soundcheck. Il suono della musica. È stato nostro ospite il chitarrista, producer discografico di fama lì a New York, Fabrizio Sotti, formidabile musicista, persona molto piacevole, ci ha raccontato di questo nuovo album prodotto lì nel suo studio newyorkese con tanti artisti, e in questo brano, una sua composizione intitolata Fall With Me, la partecipazione di una delle vocalist più richieste in questo momento negli Stati Uniti, la bravissima Algebra Blessed. Fabrizio Sotti dal nuovo album A Few Possibilities, ancora una volta alla prova del suono di Radio 24. Ancora qualche secondo a nostra disposizione prima di lasciare la linea al GR24 per l'informazione. Direi di andare a ascoltare, visto le email che sono arrivate con tantissime richieste, ancora una volta una traccia tratta da Blackbird dei Fat Freddy's Drop, album spettacolare. Non so se a te è piaciuto. Tantissimo, devo dire, non li conosco conoscevo prima, ma grazie a te li ho scoperti. Ecco, allora, Blackbird, il titolo di questo album, questa band neozelandese che lì a casa loro è, insomma, è la band di riferimento, ma in questo momento stanno girando il mondo con grandissimo successo, sold out dappertutto, sono stati anche in Italia una volta, io li ho persi, spero che qualche attento promoter li possa coinvolgere in qualche festival, perlomeno per la prossima estate. Nella loro musica si ascolta di tutto, dal soul, dall'R&B contemporaneo, hip hop, ma soprattutto quella vena reggae che i Fat Freddy's Drop non hanno mai perso nella loro musica. Il brano si intitola Bones, fra pochissimo l'informazione di Radio 24, poi di nuovo in linea con il soundcheck. Get them bones in the water, leave them all day. Get them bones in the water, get them bones, leave them all day. Get them bones in the water, leave them all day. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Siete di nuovo collegati col Groovemaster Studio per l'ennesimo appuntamento con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, una puntata dedicata in gran parte agli artisti indipendenti. Abbiamo parlato all'inizio di questa interrogazione parlamentare la parte della Audio Coop, che gestisce 170 etichette indipendenti italiane, e l'Audio Coop se l'è un po' presa con il regolamento del Festival di Sanremo, che in qualche motivo, per qualche cavillo, tiene da parte certe etichette indipendenti per dare spazio invece alle etichette storiche e agli artisti delle multinazionali. E poi abbiamo raccontato di alcuni artisti che preferiscono le piattaforme digitali come Bandcamp e SoundCloud, e ve ne abbiamo presentati alcuni che hanno pubblicato da pochissimo il loro materiale. Ma ci sono anche artisti ormai di fama internazionale che hanno lavorato con le multinazionali, che in questo momento hanno capito che le cose sono cambiate, che il mercato discografico, il mercato della musica è cambiato, e quindi preferiscono affidare il loro materiale a Bandcamp o a SoundCloud, e lo ha fatto anche una grande voce accreditata come quella della inglese Alice Russell. Che cosa ha fatto Alice Russell, Francesco? Anche lei ha pubblicato il suo album su Bandcamp. Su Bandcamp. Come si intitola l'album? Perché mi dai sempre informazioni sminuzzate? I'm the man that will find you. È proprio il titolo dell'album, sì, o della canzone? È il titolo dell'album. Ma anche il titolo della canzone che noi facciamo, sì, ascoltare. Quindi io sono l'uomo che vorrei trovare. Sì. Mi potresti spiegare, da dottore in comunicazione, questo concept? Non l'ho capito benissimo, nel senso, forse lei è innamorata di se stessa. Ermafrodita, no? Potrebbe essere. Sì, può darsi. Potrebbe essere. Alice Russell si ama a tal punto che ritrova il suo uomo nella sua persona. Sì. Non so, mi piacerebbe vederla nei momenti di eccitazione. Bah. Alice Russell al soundcheck di Radio 24 con il nuovo singolo I'm the man that will find you. Hey, aspetta, volevo dire una cosa. Ma come aspetta? Ho presentato. Presento, poi deve partire il pezzo, se no non funziona così in radio. Io presento e tu mi interrompi. È una curiosità interessante. Di chi? Di Alice Russell. Avanti. È stata da poco in tournée negli Stati Uniti con il suo bambino appena nato, c'ha circa 6 mesi. Il bambino? Sì, è infatti ancora allattava, quindi raccontava in questa intervista di come cambiano totalmente le abitudini e anche i rituali. Lei di solito riscaldava la voce bevendo un bicchiere di vodka, ad esempio. Prima? Sì, invece però adesso, con col il bambino è anche in fase di allattamento, quindi non lo può fare, quindi cerca di trovare altri modi di concentrarsi e di riscaldare la voce. Tu, ad esempio, quali sono i tuoi rituali? Però io ti voglio, i miei rituali sono i miei rituali, non li voglio svelare, no? Sono cose personali. Però ti sembra questa una notizia così importante da interrompere una presentazione, la presentazione del conduttore ufficiale del programma? Sì, del mio programma. Io avevo annunciato e tu, per dirmi questa cosa, hai praticamente interrotto l'airplay del brano. È una madre che cambia totalmente le sue abitudini per il suo bambino. Io vorrei parlare con tua madre, mio caro Francesco Tromba, prima o poi. Alice Russell al soundcheck di Radio 24 e la faccio andare adesso. Hey, I never get it all right. Be my baby and I will wait for you all night long. I've been waiting a long time for you. Soundcheck, il suono della musica. Dal leader dei vecchi Talking Heads, vi stiamo parlando quindi dei primi anni Ottanta, ovvero David Byrne, in compagnia della vocalist Annie Clark, ovvero in arte Saint Vincent, David Byrne e Saint Vincent, in un brano intitolato Who, tratto dall'ultimo lavoro discografico insieme, Love is Giant. E mio caro Francesco Tromba, mi sa che tu li hai anche visti dal vivo proprio 2 anni fa all'Auditorium Parco della Musica. Sì, ero al concerto e lui è ancora, nonostante i suoi 70 anni, era lì che organizzava balletti, dirigeva tutta la band, dove andare, che passi fare. E il look è cambiato, perché io ricordo David Byrne con i Talking Heads che utilizzava delle giacche coloratissime, soprattutto con delle spalle imbottite quasi di 1,5 metri. Sì, è famoso il concerto in cui si presentò appunto con un vestito di 5-6 taglie più grandi, tutto imbottito. Senti, e c'è anche una cosa che David Byrne ha scritto, credo un anno fa, un paio di anni fa, un libro molto importante che è stato tradotto anche in italiano da pochissimo, bello, che dovrebbe intitolarsi come lavora la musica, come si lavora con la musica in italiano. Il titolo originale era How Music Works, come funziona la musica. Funziona la musica. E sì, David Byrne racconta, secondo lui, quali sono i momenti importanti della creazione della musica e comunque come la pensa lui anche sul mercato discografico. È una lettura molto interessante. È piacevole, perché lui racconta anche un sacco di aneddoti. Sì, è un misto fra una biografia e un saggio, diciamo. Da David Byrne Who, dall'album Love is Giant, passiamo ad ascoltare un altro brano tratto dall'album This is Neo Ragtime della bravissima e bellissima Desi Di Lauro. Questa artista che ha partecipato anche a alcune tournée delle Cirque du Soleil, quindi non solo una bella voce, una grande energia, ma il fisico adatto anche a partecipare a questo tipo di spettacolo. È necessario avere il fisico. Assolutamente sì. Ebbene, Desi Di Lauro ha avuto anche l'idea di coniare un nuovo termine per definire la sua musica. Come esiste il neo soul, quindi il nuovo soul, esiste adesso per Desi Di Lauro il neo ragtime, e quindi sonorità electro swing per Desi Di Lauro, che qui ascoltiamo al soundcheck di Radio 24 con un altro singolo intitolato Popularity Contest. Desi Di Lauro al soundcheck. Hai altro da aggiungere? Che cosa? Le origini sono importanti di Desi Di Lauro. Ho capito. Allora dimmi le origini di Desi Di Lauro. Cubano, brasiliana, con origini italiane. Ecco, ecco perché è carina dalla A alla Z e soprattutto intorno alla Q. Sì, proprio quello. Oh, From the start you acted like I wasn't up for you. Seemed I'm not quite what you used to. Though I've worked every angle, changed my attitude. When we first met. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. La voce particolarissima di Cleveland P. Jones con un suo successo dal titolo Sensitive nella versione rivisitata di uno dei protagonisti della scena newyorkese di oggi. Pianista, producer, tastierista autodidatta, questo ragazzo si chiama Ahmed Sirour, è anche uno dei miei preferiti e lo abbiamo scoperto per caso proprio girando fra le pagine di Bandcamp, SoundCloud come spesso si fa. E in questa puntata abbiamo ascoltato diversi artisti protagonisti dei nuovi portali per la fruizione della musica. Ahmed Sirour però è un caso a parte. Io credo che prossimamente, nei prossimi mesi, il suo nome verrà fuori prepotentemente, perché pur non essendo un musicista completo e autodidatta, quindi suona il pianoforte, le tastiere e soprattutto utilizza il computer per realizzare i suoi arrangiamenti, ha un estro creativo particolare. Non lavora come un disc jockey, anche se poi si è laureato in ingegneria del suono a Londra, ma lavora proprio come un vero e proprio arrangiatore di musica. E infatti questa versione di Sensitive di Cleveland P. Jones è stata completamente rivisitata dall'estro creativo di questo formidabile producer di Brooklyn, New York, Ahmed Sirour. E allora tutta questa seconda parte, quest'ultima parte del nostro soundcheck, vorrei dedicarla proprio al lavoro di Ahmed Sirour. Mio caro Francesco Tromba, bisogna avere del coraggio a volte. E allora che cosa ha fatto Ahmed Sirour? È riuscito a farsi consegnare da artisti importanti e dalle etichette importanti le tracce dei solisti. Lo ha fatto per esempio su un lavoro importante della poetessa del New Soul, Jill Scott, rivisitando completamente, riarrangiando completamente il brano Golden, che è uno dei più famosi di Jill Scott, con un coraggio da grande arrangiatore di jazz. Sì, il risultato è veramente sorprendente, perché riesce a mantenere comunque lo spirito iniziale del brano, della composizione, pur rivisitando anche nella chiave armonica, quindi regalando alla melodia originale e alla traccia originale di questi capolavori un nuovo input, ecco, delle nuove suggestioni, una cosa che veramente in pochi riescono a fare. Lui lo fa molto bene, perché a volte quando si fanno queste operazioni si può anche toppare alla grande e rendere i brani un po' più cafoni dell'originale, o comunque soltanto una versione da ballare in discoteca, sai, il famoso remix. Sì. E qui invece c'è qualcosa di più, c'è un lavoro geniale. Soprattutto allora, in brani molto famosi come questo. Come questo, ma poi ne facciamo ascoltare altri. Ancora più famosi. E i lavori di Ahmed Sirour si possono ritrovare dove? Su Bandcamp è possibile anche acquistarli attraverso Bandcamp, cosa che noi abbiamo fatto perché vogliamo sostenere il lavoro di un formidabile producer della nuova generazione, afroamericano con origini arabe, e lo si capisce anche nel suo nome, Ahmed Sirour, qui al Soundcheck in questa sua versione di Golden di Jill Scott. Hey. Take me far. I'm living my life like it's golden. Living my life like it's golden. Woman. Soundcheck. Il suono della musica. Eh sì, ci stiamo dedicando al lavoro svolto nel suo studio di Brooklyn da Ahmed Sirour, uno dei migliori producer della nuova scena newyorkese, che addirittura qui rivisita un capolavoro immortale, una composizione intoccabile sotto alcuni punti di vista, I Wish di Stevie Wonder. Ma questa versione di Ahmed Sirour merita senz'altro il nostro applauso, ed è proprio per questo motivo che vi abbiamo presentato qui al Soundcheck di Radio 24 l'arte di questo signore, che si chiama, lo ripeto, Ahmed Sirour, e troverete i suoi lavori nella sua pagina di Bandcamp. Sì, su Bandcamp troviamo appunto una descrizione di quello che fa. Recito testualmente: il compositore porta avanti un'idea, l'arrangiatore poi prende l'idea e la colloca nel miglior ordine, il musicista esegue l'idea, il produttore supervisiona il tutto, l'ingegnere cattura il suono e i mix giusti, e certe volte capita di avere tutti lo stesso nome. E il nome in questo caso è proprio il suo, Ahmed Sirour. Ricordatevi, questo signore è eccezionale, una grande testa, una genialità che io non ritrovavo da un po' di tempo, lasciamelo dire Francesco. Considerando che lui ammette di non saper leggere la musica e che tutto quello che fa viene dall'esperienza. Pensa se studiasse un po' di più Ahmed Sirour che cosa potrebbe combinare. Allora chiudiamo il soundcheck di Radio 24 dandovi appuntamento a domani dalle 15.30 la prima parte, seconda parte quella più jazz dalle 19.15 con il nostro ospite domani, il pianista, compositore e arrangiatore Massimiliano Rocchetta. Chiudiamo la puntata di oggi con un altro esempio del lavoro di Ahmed Sirour, e qui l'ha fatta grossa perché è riuscito a farsi dare la traccia di voce da Pharrell dell'ultimo successo, un successo internazionale, ha spopolato con Happy, il brano portante di Cattivissimo Me del cartone animato. Vediamo che cosa combina allora Ahmed Sirour con questa traccia che lui stesso ha definito potentissima e super soul. Devo dire che gli va giù, come si dice. Gli da gli giù pesante. Giù. Sentite che cosa combina Ahmed Sirour con Happy di Pharrell Williams. A tutti voi buona serata e buona musica da Giorgio Telesforo. E da Francesco Tromba. Grazie a te Francesco. Grazie. By the way.